Siamo lodati Gesù e Maria. Una breve omelia, fratelli e sorelle carissimi, come si fa in questa giornata così solenne, che vorrebbe riprendere e completare quello che ho già introdotto ieri sera. Brevissimamente, ieri sera abbiamo meditato sulla prima parte della lettura della Passione, vedendo come la Passione di Gesù è un momento di scatenamento delle forze del male contro il bene. E quindi, vedendo anche alla luce delle reazioni delle prime persone coinvolte, gli apostoli, Pietro, Giuda, come si può purtroppo reagire male dinanzi alla grande prova che ci attanaglia. Oggi vedremo la seconda parte, gli altri personaggi che stanno intorno a Gesù e che ci invitano a collocarci, cioè a chiedere: io oggi in relazione a Gesù da che parte sto? E poi un brevissimo cenno per vedere come Gesù affronta la grande prova della sua vita, cioè la passione e la morte. Cominciamo brevissimamente. Le autorità religiose, il processo religioso, chi erano queste persone? Persone che avevano invidia di Gesù, erano gelose dei loro posti di potere, temevano che Gesù potesse in qualche modo scalzarle e facevano di, perché aveva molto seguito per la parola di verità che diceva, e dolosamente ordirono tutta quella messa in scena per toglierlo di mezzo. Ponzio Pilato lo conosciamo tutti quanti, una figura veramente emblematica. Lui aveva capito da che parte stava il bene, ma non ci ha avuto il coraggio di agire di conseguenza, perché ne temeva le conseguenze. Guardate che questa cosa è molto diffusa. Quando noi capiamo che dovremmo fare una cosa, però temiamo che poi che andrà a succedere, qui parlo anche per noi che rivestiamo le autorità, autorità religiose e anche civili, può succedere: se faccio questo poi che succede? Quali conseguenze me ne verranno? Ma quando c'è di mezzo la verità e il bene, se ci mettono in croce, è pazienza, ci metteranno in croce, capite? Ponzio Pilato non è un buon esempio. Poi ce n'è un altro, peggio, Erode. Avete visto che a Erode, mentre un pochino con Ponzio Pilato Gesù ci parla, per dargli la possibilità di fare una buona scelta, a Erode non gli rivolge nemmeno una parola. Sapete perché? Perché Erode era un vizioso, corrotto. Voleva fare di Gesù un giullare, l'ha visto, dice: fammi un po' qualche miracolo davanti. Quando ci si pone così dinanzi al nostro Signore, il Signore si ritira e tace in attesa della nostra conversione, perché non possiamo porci a questi livelli. Se uno sceglie una vita corrotta, lontana da Dio, Dio rispetta la nostra libertà fino a quando non ci muoviamo in un certo modo, ma certamente non può entrare in comunicazione con noi fino a quando stiamo in quella situazione. Andiamo avanti. Dopo Erode, spostiamoci verso il Calvario. Finalmente, le vie donne. Qualcuno che segue Gesù addolorato, quindi dice: mamma mia Signore, che sta succedendo? Una tragedia. Quindi le persone che sono in qualche modo amiche di Gesù, ma che anche dinanzi a tante situazioni di dolore e di morte dicono: mamma mia Signore, che succede? Quindi, e che risponde Gesù? Risponde tra le righe: state attenti, cercate di pensare alla causa per cui io sto vivendo tutto questo e tutto questo sta accadendo. Cosa significa piangete su voi stessi e sui vostri figli? Significa: guardate, se non esistesse nel mondo il grande problema, adesso vedremo l'ultimo miracolo che fa Gesù, che è il peccato, tutto il male che vedete in giro non esisterebbe. Cioè, la passione di Gesù ci lascia un grandissimo messaggio: nel mondo c'è un solo problema di cui tutti gli altri sono conseguenze, qui compresi le guerre, le pandemie, tutte sono conseguenza di un unico problema: la presenza del male scatenato dalla libera volontà dell'uomo attraverso ciò che la Chiesa chiama peccato. Perché tutti gli altri mali sono mali conseguenza, non sono mali cause. Arriviamo sulla croce. Oh, ci stanno i soldati e quelli che scherniscono Gesù. Avete mai sentito dire a qualcuno: ma se Dio esiste, me lo dimostri, mi guarisco questa malattia, mi risolvo questo problema. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Se scendi, ti crediamo tutti quanti. E attenzione anche il messaggio, no? E qui appare la grandezza di Gesù. Salva te stesso, ma sapete che il nome Gesù non significa Dio salva se stesso, ma Dio salva gli altri. Proprio perché era il figlio di Dio, non ha salvato se stesso e pur morendo maledetto da tutti, ha accettato quell'umiliazione per il nostro bene. Ecco. Poi ci sta il cattivo ladrone, che è l'eco di queste cose. Ah, guarda come mi sono ridotto, guarda quanto soffro, liberami se sei il figlio di Dio. E poi c'è l'unica persona intelligente che sta lì, che è il buon ladrone, primo santo canonizzato. Quello ha capito, dice, fermi tutti. A noi ci sta bene che stiamo qua. Noi siamo peccatori, capite? Siamo capaci noi di dire davanti alle avversità della vita, andare in ginocchio davanti al Signore e dire, Signore, a me questo mi sta bene, a me mi sta proprio bene, perché io me lo so meritato. Tu no, che sei morto in croce, ma io sì. Siccome mi sono meritato questi mali e te li offro come penitenza per i peccati che ho fatto, abbi pietà di me. Ah, se uno dice così, ha svoltato. Vieni con me in paradiso. Il primo processo di canonizzazione l'ha fatto nostro Signore, dalla croce. Non l'ha fatto il Papa, l'ha fatto lui. E sapete cosa dicono? Guarda, il Vangelo di Luca è stupendo. Il buon ladrone è stato il vero ultimo miracolo di Gesù da vivo. Perché sapete i miracoli più grandi che fa Gesù quali sono? Quelli che non si vedono, che è la conversione dei cuori. Il Vangelo di Luca comincia a raccontare, che è quello che abbiamo letto, comincia raccontandoci il primo grande miracolo di Gesù. Qual è? Se qualcuno è un pochino istruito, saprà che il primo miracolo di Gesù è l'acqua in vino alle nozze di Cana. Ma non è così. Perché il primo miracolo di Gesù, ce lo racconta San Luca, quando la Madonna va in visita a Santa Elisabetta. Il bambino che era San Giovanni Battista gli sussulta nel grembo, sapete perché? Perché Gesù l'ha liberato dal peccato originale, in maniera silenziosa. E l'ultimo miracolo qual è? Perdona il buon ladrone, non solo del peccato originale, ma di tutti i peccati che aveva fatto nella vita. Come reagisce Gesù dinanzi alla passione? Parla poco, ama molto, opera molto, dice le cose strettamente necessarie, punta gli occhi sulla volontà di Dio, muore come atto di obbedienza suprema al Padre, dona se stesso per gli altri, senza pensare a sé. Questo è l'esempio perfetto che a tutti noi ci è dato e che speriamo sempre di poter seguire. Siamo lodati Gesù e Maria.